I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. L'ipotesi di aumentare l'IVA per finanziare la riduzione delle tasse sul lavoro alimenta un confronto che si sta facendo aspro sia tra gli economisti, sia tra le forze politiche, persino all'interno della maggioranza di governo. Ieri è toccato al ministro Padoan il compito di prendere le distanze dalle ipotesi circolate solo qualche giorno prima, che rilanciavano la possibilità di avere già nel 2018 un aumento dell'IVA finalizzato a tagliare il cuneo fiscale, ovvero a ridurre la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta percepita dal lavoratore. Padoan, lo ha ribadito, ritiene fondamentale perseguire l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale. Ha anche ammesso che lo scambio fra più IVA e meno cuneo fiscale può rappresentare in teoria un buon modo per arrivarci, ma il ministro è anche consapevole delle difficoltà che questa soluzione comporta. Da un lato perché proprio nel documento di economia e finanza il governo si è impegnato a congelare ancora l'aumento delle aliquote IVA, con il timore che ciò possa avere ripercussioni negative sui consumi. Dall'altro lato perché, non scordiamolo, le elezioni sono sempre dietro l'angolo, che sia già l'autunno o sia piuttosto la primavera, poco cambia. Nessuno può permettersi di presentarsi agli elettori portando in dote un aumento delle tasse, neppure se compensato con il taglio del cuneo fiscale, che è un'ipotesi che però tutti, dall'OCSE al Fondo Monetario e ieri anche la Banca d'Italia, continuano a indicare come prioritaria. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Non preoccupatevi, prendete i vostri aerei, nessuno vi butterà fuori dalla cabina. È incredibile, ma è proprio così che il vice primo ministro giapponese ha esordito a una conferenza stampa alla Columbia University di New York, davanti a una platea di centinaia di studenti rimasti attoniti. È ovvio che il caso a cui si riferisce è quello della United Airlines, quando un passeggero, che era in sovrannumero rispetto alla disponibilità dei posti, fu trascinato letteralmente fuori della cabina da alcuni assistenti di volo, causando un'onda di oltraggio, soprattutto di stupore e di costernazione internazionale, per il trattamento sempre peggiore che si riceve quando si prende un aereo. Ma come giudicare la battuta? Da una parte una battuta, dall'altra c'è un segno di verità. Ormai con il terrore, purtroppo, del terrorismo e con le regole sempre più strette sui voli, basta indossare una divisa, anche da assistente di volo, per trasformarsi automaticamente in una sorta di agente di polizia. È un po' la rivincita degli impiegati? No, non possiamo dire questo, ma certamente si è creata una sorta di psicosi autoritaria per cui rispondere male o non rispondere affatto, a chiedere spiegazioni anche un po' troppo veementi sul ritardo, sul perché ci vogliono far scendere un aereo, si rischia, se non l'arresto, quello appunto di essere picchiati e trascinati fuori. Fuori di metafora, è ovvio che la questione degli aerei sta diventando sempre più sentita, soprattutto o per la sicurezza o per l'eccesso di trasporto, visto che ormai con la gara fra low cost e con i biglietti gratis, gli aerei viaggiano pieni, ma viaggiano sempre più pieni, di rabbia e di rancore, o perché non si riesce a salire o perché si viene buttati fuori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su Radio 24.it e RDS.it.